Parlavore, e via. Oh, questi baracchi mi spendono un sacco di soldi per un baracchino, graffiti, minchia, ma sono visti su internet, super modificati per carità, ma 4-500 euro non si può spendere, 4-500 euro per un baracchino, per quanto modificato, boh, mica ci compri un bel apparecchio, Allora, questo qua me l'ho dato, l'ho preso da Massimiliano io, era già pronto. Se vado a comprare un 40, che ce l'hai visto, di vecchio modello, vecchia generazione, come sono tutti quelli modificati, quanto costano, quanto trovano, perché c'è un casino di richiesta, sempre della stessa maniera. Originale, mai toccato, trovano quel prezzo. Io con 250 euro, Massimiliano me l'ha dato. Poi siccome ho fatto un po' di casino mentre lo stavo attaccando la corrente in macchina, ho bruciato i condensatori della corrente, con la scusa gli ho fatto mettere l'antismaltero e gli ho fatto rigidire la modulazione, 50 euro, ma non glielo mando più, così com'è si rimane, capito? Poi 350, 400, 600, c'è qualche numero di qualcuno che ho conosciuto su Borgo Manero che cioè glielo mandi e lui ti dice allora per fare questo ci vuole tanto, per fare questo ci vuole tanto, invece c'è un altro che ti dice no, io voglio tanto e ti faccio tutto, invece no. Poi questo uno che ho conosciuto proprio, ci abbiamo parlato, tanto quanto ha detto allora per fare questo ci vuole questo vuole lavorato in questa maniera, per queste lavorazioni non devi cambiare un cazzo, invece c'è qualcuno che ti dice no, ma per fare quello bisogna cambiare quello, poi te lo manda, tu logicamente magari non sai che cazzo ha fatto, dice che ha cambiato questa, non ha cambiato un cazzo, la vita. Sì, stavo leggendo qualcosa qui, c'è un altro trucco, però purtroppo sono un po' di esperienza di leggere qualcosa in fila e via, poi c'è uno schermino davanti con la sua fisseria, un'apparecchiatura che mi fa uguale rosso, mi faccio legge, ma solo te, per carità, non sto dicendo che non si rimanga, perché il malattino non trovi quello che lo paghi, ma tu anche la scheda la paghi tutto, qua poi tu, per carità, quando la prova con gli ore, io non trovo che ci metto ore, ma faccio portazione per ubi, però se lo fa per lavoro e prendo un apparecchio, trovi 10, cazzo, se il tuo lavoro, quell'ora di lavoro a pagare 2 ore, non lo so, tu ci vuoi 3 ore, vanno pagate. Quindi il lavoro c'è, non è che non c'è, però voglio dire, alla fine, minchia cazzo, quando spendi 400 euro, 500, 350 per un malattino, per quanto per carità i soldi ci sono tutti sopra, cioè, mi sembra una cosa, perché se io lo procuro, lo compro, proprio, lo modifico io, mi gioco io, lascia perdere il mio, ma io sono convinto che ho visto un po' di prezzi, manopoline, schede, contro schede, puttanate, 120 euro, alla fine mica tra comprare quello l'ufficio di tutti bastano 300 euro, capito? Quello già è vero, quello è vero, quello sì, però molti vogliono quel baracchino perché quello te lo fa così, così, così e così, poi c'è molti altri che te lo fa. Io sono a Borgo Manero, ho conosciuto uno, facevo amico su Facebook, ci sentivamo gli anni scorsi, poi sono lavorato lì, ogni tanto già si sente qua, ci ho anche parlato in modulazione. Lì si è rotto il baracchino, si è dimenticato la portante schiacciata tra il braccio e il sedile nell'escavatore, ha bruciato lineare e baracchino, ha preso tutto, poi si poteva mettere a posto, dal Rudico è sceso fino a Napoli per aggiustarselo, non gliel'ha spedito, è sceso lui, tu pensavo che è malato, perché lui voleva il dottore. E ho capito, sono tante cosette, ma io per quello che ho adesso mi fa anche troppo bene, capito? Sono tutte delle piccole cose, per dirti, due condensatori che ho cambiato io, che costano 80 centesimi, tutti e due se va a comprare la Melchiona, più un'altra cassettina che costa 30 centesimi, l'antismatro che costa 8 euro, 50 euro mica, non gli ho detto un cazzo, infatti adesso io e altre due o tre persone ci serviamo da lui, non le mandiamo più niente. Non me ne frega niente, ma se c'è qualche problema spendo 7 euro e lo spedisco fuori, capito? Ah, ti cara! No, no, fate, sto mandando un messaggio a un amico, fate. Comunque Fabio, la modulazione è ancora più bella di prima adesso, evidentemente hai fatto le letterature con lo strumento giusto. Però mi sento facendo bene, e comunque questa sarà anche lì, vabbè, pure come si avvia, va bene così, non è più meglio mettere la mano, però questa di modulazione è esce meglio secondo me della via di quello che hai tu che hai tutto ricostruito intorno a Chapo. Sono convinto che questo esce meglio della via, perché la via come ho fatto secondo me con 80 non c'è problema con 85, però più potrà di bassi. Questa è la mia impressione, adesso non ho voglia di fare le prove per questo bella calle, se quando ce l'ho accesa ma sta male, non lo spento perché la sto provando, quindi però ho questa convinzione. Va bene, mi ci si sente l'accoppiato al primo, al bibanda l'accoppiato, che ho fatto dopo esce benissimo, tanto con le 440 sono utilizzo l'85 e anche con l'T50 sto usando l'85, l'accoppiato in TV. Quindi i problemi microfoni già vanno bene così. Con lo Yoris sono con lo Giorgio l'MB100 e con il Paraxi sto usando l'MB5, l'MB9 c'è un barattino che è un Texas che è sempre fatto. Con l'MB5 ho comprato un microfono, questo sacco di soldi l'avevo comprato, ma usato. Che vabbè. Sì, no, dai tu mi ho detto che praticamente devi andare vicino lì a mangiare la Claudio. Di Ruggero. Ma ci passi e prendi l'apparecchio e glielo porti, così se lo usa e se lo prova. Guarda, l'avrei fatto, però sono già, come ben sai, mio vizio è essere in ritardo, che se sto cambiando, sono passato dai tre quarti d'ora al quarto d'ora, quindi non ce la faccio, se non volentieri. No, Fabri, ma non ci pensare neanche minimamente, ma non per disturbare Antonio in modo più assoluto, tienilo lì e usalo. Non me ne portare, tienilo lì e usalo tu. Oggi sono tutta la sera, c'è l'acceso, la sta male, perché sono ieri tre, sono terminati ieri alle 1:30, 2, ho terminato tutto quanto, ho fatto 2 minuti, poi non ero convinto che era stanco e quindi l'ho ripreso dopo pranzo a terminare di fare altri, di ricontrollare un po' gli alimenti e finire 4 controlli, le solite verifiche, cioè una volta fuori ci devi fare un po' di controlli per essere sicuro. Poi sono provato, vabbè, non più ci ti nascondo, sono fatto un po' di cose su, giù, da tutte le parti, era malabone, allora poco fa, 10 minuti fa, prima di andare a mangiare, 20 minuti fa l'ho chiuso, fatto un po' di prove di recensione, eccetera, eccetera. Ora apposta, sto usando apposta, ma non aveva niente, praticamente l'apparecchio, non aveva problemi. Probabilmente è stato stressato ancora di più, ha dato insulto problema che vanno sempre, ti ripeto, questi apparecchi, è inutile. Infatti adesso su un altro che ho rifatto, ma non so se sono stati fatti, siccome ci vuole molto tempo, alla fine se non ti rappresi che non fa problemi tu non gli metti mano. Ma è un problema che bisogna togliere, e non ho fatto che hanno sbagliato, e più o meno tutti hanno sbagliato con questo cazzo di cosa induttiva e hanno fatto un anno pazzesco su questo radio, mettendo questa specie di cera, che poi diventa una colla induttiva, una cosa vergognosa. Lo so Fabri, però evidentemente lì l'alimentazione stessa, come è arrivata più alta, ha sciolto la cosa induttiva e è andato in trotto. A me ne conto non c'è successo niente, beh. La riparazione, visto che mi ha mandato un messaggio l'interessato, no? Mi ha mandato un messaggio da Olbia, la riparazione la paga lui, capito? La paga lui la riparazione, non so se sta lo sconto, ma anche la riparazione la faccio pagare adesso. 7 ore, a quanto lavori tu Fabri? 16 ore a ora, 20 ore a ora? Lascia stare, grazie. A far pagare questo lavoro a un altro gli ho detto, voglio tutto per farlo, se no non te lo faccio perché rognoso. Ma siccome sono molto detto, se te l'ho preso vuol dire non voglio niente. Tiraglielo via, e allora fare appunto il solito discorso che ti dice, no, purtroppo questi apparecchi non capitare, roba di vecchiaia, no, problemi di vecchiaia, li usi perfetti e poi da un momento all'altro ci sono sui colpi, sono sempre i soliti problemi in genere, capito, non ci fa proprio altro, non te l'avrei mai, se te lo faccio, se lo faccio con piacere, ci mancherebbe altro, ma sei scherzato. Va bene Fabri, ti ringrazio. Rimettiamo il mic al Grob che si sta preparando e quindi niente. ne approfitto infatti per, ho finito giusto adesso, ne approfitto per salutarvi, buona carica quando la farete, ciao Daniele, ciao Claudio, ciao, come si chiama, Fabrizio, ci sentiamo stasera se coincide, se vi trattenete oltre le 11, dai, anche perché penso di non dover far tardi, ci sentiamo dopo se coincide, allora dai, riprendi Fabrizio e buona carica di nuovo, ciao. Riprendo io, buona carica, un po' che spara molti, ma niente, ti spara molti, ma la cosa è traverso, così dopo 11 non ti sentiamo, buona cena, dai, con tutto il cuore, dai. Buona cena a tu, alle prossimine se non coincide a dopo, già ci sentiremo anche in giornata. Tanto questi oggi e domani imparano, c'è ancora un lavoro, tengo in macchina per questi paio di giorni, poi dalla lunedì alla chiesa, va. Infatti buona carichetta di cena alle prossimine, dai, buon proseguo di serata. Ciao. Ciao Antonio, buonasera con tutti. Ieri l'ho visto, l'ho strombazzato, stavo entrando a casa con la furgonetta, che poi vuole quello che c'è, io sono il suo colore. Ciao ragazzi, va bene, buona cena con tutti, vi saluto io. Va bene Fabri, però sono cose che stanno iniziando a rompere, capite? Sono cose che non ti hanno rompe, non è sempre disponibile qui e là, e quindi bisogna che qualcosa facciamo. Ma ti porto a cena, se mangi poco, se mangi poco ti posso portare al bullying, Fabri. Ma vale, diceva non picco io, ma non mi fa la cena è meglio che gli fa due stippa. Saluti a tutti e buona cena. Ok, grazie, saluti anche a te e buon fine trabacco.